ce qui dit. Idées de le mari, j'ai grand fantasma, et ciò di cosa qui a me, qui perdi. Tutto fu il sueño, il sueño qui perdi. See ya.